Palla Spicchi con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Franco Pietanini in redazione, Roberto Scaltritti in regia. Per fortuna oggi c'è Palla Spicchi, così possiamo evitarci il tormentone Tevez, di cui francamente non si può più, con risvolti anche quasi comici come quelli di oggi, con Maxi Lopez che è lì che non sa dove andare. E il City che deve dare sta risposta, se regala, se presta Tevez al Milan fino a fine stagione, entro le 18:30. Dunque ne sapremo di più in serata. Intanto oggi Massimo Oriani scrive sulla Gazzetta dello Sport: coach Dan Peterson, che da qualche giorno è sbarcato su Twitter, ieri ha usato la sfida tra Lakers e Clippers di mercoledì notte per far capire agli americani che cosa significa per Milano il derby Milan-Inter. Ciao coach, cosa hai scritto? Ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Ciao. Cosa hai scritto? Ho detto che i derby sono una specie di tra virgolette, ovviamente, di guerra termonucleare, ok? Quindi nessuno può stare da... Io sono l'unica persona a Milano che non è schierata da una parte all'altra, perché sono da Chicago, okay? Sì. Sono tifoso dei Chicago Cubs, dei Chicago Bears e compagnia, la mia università. Infatti io voglio vedere tutte le due squadre di Milano andare bene. No, sì. Questo non è il caso con tutti, ok? Cioè, sei 100% per uno e questo vuol dire 100% contro l'altro. Sai che per i gusti degli italiani sei un po' troppo democristiano, ma comunque tant'è. Senti coach, Lakers e Clippers si sono dati un sacco di botte l'altra notte, una partita. D'altra parte mai sono state così vicine come valore. Qualcuno ha detto, stavo guardando un programma televisivo americano ieri e Michael Wilbon, famoso giornalista americano, ha detto che è sceso all'aeroporto proprio a Los Angeles, e prima quando scendeva lì l'aereo c'era uno stand lì che vendeva i gadget, le divise, le t-shirt delle Lakers, non c'era niente di Clippers. Adesso c'è uno stand dei Lakers e uno stand uguale dei Clippers, cioè vuol dire sono equiparati, hai capito? Cioè, poi in campo uno qui, uno là, c'è proprio due squadre che lottano per i titoli stagionali, cioè una cosa che non è mai esistita a Los Angeles. Sicuro. C'erano sempre i cugini poveri che erano i Clippers. 800-24-00-24 per gli ascoltatori che vogliono intervenire. Certo, se fosse questo derby, si riproponesse nei playoff, potresti usare su Twitter l'immagine del derby di Bologna, magari, di basket. Ma io ne ho fatto 10, ok? Quindi erano lì 5 anni e c'erano solamente 2 all'anno. Ci sono altri allenatori tipo Messina, che è venuto dopo, che ha fatto quasi 10 in un anno, ha fatto, lo so, 2 in campionato, 2 in Eurolega, sì, uno sì, in Coppa Italia e 5 in finale scudetto. Questo sono 10, ok? C'è una cosa che è inimmaginabile, però erano ai tempi le due squadre più forti, finale 98 c'erano loro due. Certo, certo. A proposito di Bologna, Bologna ma anche Pesaro, guarda com'è importante correre senza pesi sulle spalle, guarda dove sono in classifica e guarda che qualità tutto sommato di pallacanestro stanno producendo queste due squadre. Vale, loro sono, non posso dire sorpresa, perché forse più Bologna che Pesaro. Sai, quando Pesaro ha preso Jumaine James e anche James White, c'era un salto di qualità lì previsto, ci è voluto un attimo per mettere tutto a posto, ma chiaro, Luca Del Monte, un allenatore molto navigato, ha messo le tasselle proprio a posto, quindi abbastanza. Invece la Virtus, con Finelli, che sembrava una squadra che non doveva fare un grande campionato, invece complimenti a loro ragazzi, hanno fatto sorpreso tutti, me per prima. Coach, invece arriviamo ai tasti che fanno male, che sono quelli di Milano. 6 sconfitte, arriva J.R. Bremer, sconfitte anche diverse se vogliamo, però sempre 6 sconfitte consecutive e una squadra che ha un mare di problemi. È giusto provare a risolverli aggiungendo un giocatore secondo te? Ovviamente non sono dentro la parte tecnica della società, quindi non, questo non lo posso dire. Io ho una visione su Milano ed è questo qui. Sergio Scariolo, ogni giorno che lui lavora, secondo me, la situazione migliorerà. Quest'anno è un anno di transizione, nel senso che nuovo allenatore, nuovi giocatori, ci sono 9 nuovi giocatori, e quest'anno vediamo come andrà a finire, può anche andare bene, ok? L'anno prossimo sarà meglio ancora, quello dopo meglio ancora, questa è la mia valutazione della cosa. Non dimentichiamo che Siena ha fatto questa scalata, ok? Prima c'era l'allenatore della Turchia, che adesso Ataman, che era lì, poi Recocati, poi pianificare, cioè non è stata una cosa in un giorno, cioè hanno programmato per tempo per arrivare. Adesso diciamo Siena vince sempre. Facciamo marcia indietro a 2000 o a 1999, certo, quando è cominciata la scalata che li porta in cima alla montagna. Adesso io sono molto convinto sia della società che dello staff tecnico, di tutto, anche del giocatore, cioè, io ho sempre detto, se tutto fosse cominciato per Milano non il primo di settembre ma il primo di gennaio, sarebbe una squadra con tutto il lungo precampionato, Scariolo lì tutto il tempo, mm-hmm, sarebbe stato diverso. Non è stato così, ero pagato, cioè proprio sul campo. Però sì, adesso giocano domenica un compeso, vediamo come va a finire. Se riescono a rompere lì e poi andare a Casana e vincere lì, poi anche giovedì sera o mercoledì sera, se quel tiro fosse andato dentro, cosa staremmo a parlare oggi? Che grande vittoria. E quindi cioè, purtroppo per loro non è andato dentro e stiamo per parlare della stessa sconfitta in fila. Quindi questo è un peccato che è per loro. Però preferisco vedere il bicchiere messo pieno, sì, anziché messo vuoto, perché come? Anche per le squadre italiane guarda cosa ha fatto Cantù. Guarda, no, cosa ma fatto per Cantù, coach, Cantù, io credo che la vittoria sullo Žalgiris sia benzina, ma per il modo in cui è arrivata, no? Di rincorsa, con tutta la rabbia necessaria, con raddrizzando una partita che sembrava persa. Credo che vincere così sia benzina. Yeah, la partita era persa, e poi bisogna dire che coach Andrea Trinchieri con molta astuzia ha fatto diversi cambi, anche rischiando qualche formazione, due playmaker, quelle storie lì, guarda il risultato. Cioè, poi ovviamente c'è sempre San Gianluca Basile lì per le cose, quindi però campionato davvero incredibile. Lì abbiamo fatto noi Sport Italia, Gran Gala del Calcio, sì, lunedì, e premiato la società dell'anno Udinese. Sì. Okay? E io ho detto a qualche giornalista dopo che Udinese è il Cantù del calcio, cioè proprio centro piccolo, budget limitato, scelgono bene i giocatori, allenano bene i giocatori, producono le squadre, gli allenatori lavorano come Dio comanda, cioè vedo questo paragone fra queste due società. Siena invece ha fatto l'impresa, sempre per restare in tema di Eurolega e chiudere, coach. Siena ha fatto l'impresa a Madrid, no, vincendo in maniera imperiale. Dà la sensazione davvero di, ma anche in campionato mi ha dato questa impressione, sì, di aver ritrovato il filo del discorso. Assolutamente, c'è poi Bootsy Thornton, che anche l'anno scorso, ti ricordi, è arrivato ieri, un mese sembrava un ex giocatore, poi boom. Adesso Bootsy Thornton per un mese sembrava un ex giocatore, boom. Questa vittoria di Siena, io ho paragonato questo quando la Mobile Gigi Varese nel 77 è andata a Tel Aviv, una vinta di 23 punti a Tel Aviv. Questa è l'unica cosa che posso paragonare questa qui, a una vittoria di 20 e rotti punti in trasferta contro una grande squadra. Noi abbiamo vinto a Tel Aviv per 18 la volta, ma questa qui secondo me è ancora più impressionante, cioè proprio perché a Real Madrid era considerato primo in quel girone, con le storie lì, invece Siena è andata lì, ha dato una lezione anche un messaggio a tutti, campionato italiano e Eurolega. Chiaro. Coach, per chiudere, giro la domanda anche agli ascoltatori, a 800 24 00 24, un tuo pensiero sulla settimana del Gallo, 37 al Madison, 42 milioni di dollari su quel contratto per 4 anni. Tanta roba, eh? Tanta roba. Tanta roba. Tanta roba. Però se l'ha meritato lui. E quindi il Gallo è un prodotto proprio di un grande lavoro di famiglia, anche okay, padre Vittorio Gallinari, Marilisa, la mamma, c'è proprio tutti lavorano insieme per questo qui. Per un ragazzo con grande dedizione, proprio partendo da Casa Pusterlengo, nella società di Franco Curioni, poi a Milano, poi Pavia, poi Milano, poi qui, superando dolore di schiena, operazione di schiena, con grande astuzia, con grande lavoro, cioè, migliorando il gioco. Hanno detto tu devi entrare di più, adesso entra di più, subisce 10 palle a partita, tanto per dire. Quindi è un ragazzo estremamente intelligente, ha i piedi per terra, e posso dire questo, è venuto l'anno scorso, dopo il nostro campionato, George Carl, il suo allenatore lì a Denver. Carl, non puoi immaginare come ha parlato lui in senso di elogio totale per Danilo, cioè lui è innamorato di Danilo come giocatore, perché io ho cominciato io a dire, coach, sì, Danilo, grande tiratore. E lui dice, Dan, no, questa è l'ultima cosa che mi interessa. Lui fa tante altre cose, fa stoppate, gioca difesa, prende il passo, passa la palla, va al primo passo, subisce, fa... mi ha fatto un elenco di cose, cioè, sembrava un menù, hai capito, di cose che Danilo fa che per lui sono più importanti che il bellissimo tiro che lui è da fuori, meglio che abbia, ok? Però certo. Lui è molto, ma molto, ma molto innamorato di Danilo, la società pure, sono strafelice di lui. Beh, certo, perché il basket è uno sport di squadra e per vincere servono giocatori come Danilo Gallinari. Grazie coach, ci sentiamo ciao, venerdì, ragazzi. Ciao, un abbraccio. Ciao, ciao. Palla spicchi. Così abbiamo anche dato risposta ad un ascoltatore che domandava un riassunto di come sta andando Gallinari nell'NBA. Benissimo, grazie. Con questi due numeri che rappresentano il senso della sua settimana e mi sembrano numeri importanti. Abbiamo anche la pagina Facebook di Palla Spicchi su cui stanno intervenendo gli ascoltatori. Dicevo della disillusione comunque dei tifosi di Milano, ad esempio c'è Gabriele che scrive: Milano mi sta deludendo, ci mancherebbe altro, 6 sconfitte in fila non è un avvio brillante, e poi io continuo a pensare che insomma anno di transizione va bene, ma fino a un certo punto, perché Milano deve cominciare a vincere. Corretto dire stiamo programmando, però io credo che i tifosi vorrebbero vedere già qualche risultato, soprattutto in un campionato mai così aperto nelle ultime stagioni. Sto dicendo delle banalità, anche se Siena sembra aver trovato il passo per chiudere definitivamente anche questo discorso. C'è chi scrive anche: vi ricordate i discorsi che facevate sempre su Facebook, quando c'era il lockout NBA, giù a tessere lodi di chi portava qui Gallinari e C, tutti fortissimi, sia chiaro, fa bene al movimento, eccetera eccetera. Nel basket e nello sport in genere ci vuole pazienza e programmazione, non fenomeni USA che fanno le meteore. Siena programma, Cantù programma, Milano fa la collezione di figurine prendendo quelli che erano forti l'anno prima. Io continuo a pensare che comunque in uno sport, se vogliamo anche in crisi di popolarità, anche in crisi di appeal come la pallacanestro, i giocatori che sono arrivati, anche se per un breve in Europa, non solo in Italia, anche se per una breve esperienza, abbiano fatto bene al movimento, e continuo a pensarlo. Ma torniamo a parlare di Gallinari, da gallo a papero a paperone, Cosa dite? Lo sapete cos'è che mi piace di più dell'oro? È che ne ho un sacco! Perché l'oro è così prezioso, zio Paperone? Perché è molto raro, infatti posso vendere un pezzettino d'oro per un sacco di quattrini. E con loro si può anche fare una bella partita a dama. Ne ha un sacco di oro anche Danilo Gallinari adesso, 42 milioni per 4 stagioni, che va a fare il paio. E voglio capire anche, voglio leggere insieme a voi con l'ospite che è in linea, il peso specifico di questi contratti. L'anno scorso eravamo increduli, anzi 2 anni fa, per quei 50 milioni per 5 anni di Andrea Bargnani ai Raptors. Simone Sandri da New York, ciao Simone. Buon pomeriggio Carlo. Cosa significano questi numeri sul contratto di Gallinari? Che è diventato una superstar? No, diciamo non ancora una superstar, ma un cosiddetto top player probabilmente, perché comunque è un contratto che è importante, perché sono 10 milioni, un po' di più di 10 milioni a stagione, ed è praticamente quello che dice Denver con questo contratto è che Gallinari diventerà per i prossimi 4 anni il giocatore sul quale costruire una squadra giovane, interessante, affascinante, anche perché sta giocando un basket divertente, vincente, e che veramente Gallinari ha la possibilità, secondo me, di diventare anche di fare il salto di qualità, di passare da top player proprio a stella nei prossimi anni, forse potenzialmente anche magari andare allo Star Game. E credo questo contratto qua testimoni il fatto che veramente Gallinari abbia sia diciamo nella durata di questo contratto può fare proprio il salto di qualità e diventare una stella davvero. Sì, per dare un ordine di grandezza, leggevo l'altro giorno ad esempio che Russell Westbrook, che è la vice stella di Oklahoma alle spalle di Durant, prende circa il doppio, sembra sia 80, no? Sì, Westbrook ha firmato il cosiddetto max contract, cioè il massimo che può prendere un giocatore, che è praticamente il 25% della salary cap della propria squadra. Gallinari non è ancora a questo livello, ovviamente non è ancora anche a livello contrattuale, ma neanche a livello cestistico. No, è vero che il prossimo contratto di Gallinari, considerato questa la fiducia che gli sta dando Denver, sia da un punto di vista economico che da un punto di vista cestistico, sì, forse potrebbe essere il prossimo, il contratto, magari il max contract, tra 4 anni probabilmente, se le cose vanno come tutti a Denver si augurano che vadano, probabilmente ci sarà la possibilità di vedere magari Danilo Gallinari con un max contract tra 4 anni a Denver. Sì, l'altro invece milionario nostro, cioè Andrea Bargnani, che aveva lo Star Game nel mirino, tra l'altro siamo in rush finale per quanto riguarda le votazioni, è tornato ad avere problemi a quel polpaccio, è rientrato, super partita, di nuovo uscita dal campo zoppicando con smorfie dipinte sulla faccia. Sì, davvero, davvero sfortunato Andrea Bargnani, perché Toronto è con Bargnani nel line-up, dopo sei partite fuori per questo problema al polpaccio sinistro, ha giocato secondo me 2 partite eccezionali a Phoenix e a Salt Lake City contro i Jazz, ha 2 vittorie consecutive con un Bargnani super a Phoenix, è un ottimo Bargnani a Salt Lake City, e poi proprio nel finale, nel supplementare di Salt Lake City, ha avuto questa ricaduta al polpaccio. Purtroppo sembra che sia una cosa anche più grave rispetto all'infortunio precedente, almeno questa è stata la sensazione di Bargnani a fine partita. Si vedrà solo con una risonanza magnetica che è in programma nei prossimi giorni, che è quello che succederà. Di certo è, e credo che qualche partita la salterà, probabilmente almeno un paio di settimane, forse di più, per cui lo Star Game diventa davvero, davvero difficile per Andrea in questo momento. Già il fatto che con Toronto, con il record di Toronto, non è facile riuscire a prendere una convocazione allo Star Game se non sei votato dai tifosi, il fatto di dover comunque mancare così tante partite non sarà facile per andare a riuscire a fare questa cosa, che sarebbe ovviamente una cosa straordinaria, quella di andare allo Star Game. Sì. Beh, i numeri ci sono tutti, Simone, i numeri ci sono tutti. Se c'era una stagione in cui, di quelle disputate fin qui da Bargnani, se c'era una stagione in cui poteva essere giocatore dello Star Game, al di là di Toronto, che è una squadraccia, al di là del record pessimo, doveva essere questa, perché i numeri c'erano tutti. Sì, sicuro, però la filosofia dell'NBA è quella che, è vero, ovviamente i numeri non si discutono, però devono essere non devono essere solo ottimi numeri o numeri da All-Star Game, devono essere numeri però straordinari per convocare un giocatore di una squadra di bassa classifica, in questo caso una squadra che vince partite col contagocce, purtroppo, allo Star Game. Per cui paradossalmente potrebbe essere più facile per Danilo Gallinari se Denver continuasse a giocare in questo modo, se Denver avesse il secondo miglior record della Western Conference. È vero che sono statistiche diverse rispetto a quelle di Bargnani, però stiamo parlando del miglior realizzatore di Denver, è anche un modo che hanno gli allenatori anche per premiare la stagione di una squadra, per cui io per esempio non sarei così pessimista. Secondo me non è così scontato il fatto che magari Danilo Gallinari non potrebbe andare allo Star Game, anche se purtroppo nel suo ruolo, soprattutto ad oggi, ci sono tantissimi giocatori che sono dei fenomeni, per cui è molto difficile. Poi io onestamente no, io spero che ci vada, però non faccio fatica a immaginare un giocatore meno da All-Star Game di Danilo Gallinari, ma personalmente. 800 24 00 24, se volete dire la vostra. Io voglio chiedere invece a Simone Sandri la sua su un altro nostro amico, un altro dei nostri che è lì nell'NBA, che non se la sta passando bene, cioè Michelino D'Antoni sulla panchina dei Knicks, sempre più al centro dell'uragano. Sì, assolutamente. Mike ha quest'anno veramente ha dei grossi problemi, perché era soprattutto con l'arrivo di Tyson Chandler e il fatto che questa squadra ha 3 giocatori di livello alto, come Stoudemire, Carmelo, Anthony e Tyson Chandler. Quest'anno per Mike, che ha il suo ultimo anno di contratto, non c'erano più giustificazioni, se vogliamo, soprattutto da parte dei tifosi e della critica newyorkese, che è sempre molto molto difficile. Le cose stanno andando molto male, soprattutto stanno andando male in maniera abbastanza inaspettata, perché i Knicks da un punto di vista offensivo stanno veramente giocando male, ed è stranissimo, e non è mai successo, almeno nella storia dell'NBA, della storia di Mike nell'NBA, di vedere una squadra di Mike D'Antoni avere problemi in attacco. Invece questi Knicks non riescono veramente a trovare la chimica, soprattutto perché Melo continua a giocare il suo basket un po' egoistico, Stoudemire non riesce a essere coinvolto da Carmelo Anthony, c'è un problema, non ci sono guardie di buon livello, non c'è un playmaker, i Knicks stanno andando malissimo e purtroppo adesso ci sono due trasferte consecutive a Miami questa sera e a Houston. Io purtroppo ho questa paura che se dovessero perdere anche queste due trasferte consecutive potrebbe veramente arrivare la fine dell'era d'Antoni a New York. Spero di no, ma purtroppo è una situazione molto difficile. Sì, è un amore che non è mai cominciato, non è mai cresciuto quello di... È cominciato perché è stato accolto con grande favore dalla grande mena Mike D'Antoni, doveva essere l'allenatore della ricostruzione. In realtà però il feeling è finito molto presto e non è più rinato. Simone, ti ringrazio. Grazie a te, Carlo. Grazie, Simone Sandri da New York. Palla spicchi. E adesso, prima di farvi venire fame, anche se immagino abbiate già pranzato, poi vi spiego anche perché, in attesa di questo comincio a parlare con gli ascoltatori. 800 24 00 24 numero verde. C'è anche c'è vari messaggi come questo di Renato che domanda due parole su J.R. Bremer, nuovo americano dell'Armani Milano, firmato ieri. Si parlava di Bremer da molto tempo, viene aggiunto questo giocatore, play guard, 31 anni, grande esperienza anche italiana, l'abbiamo visto ad esempio a Biella. Non è un crack, non è un fenomeno, non è un giocatore che ti cambia la squadra da solo, è però uno che può dare una mano. Ne parliamo però più tardi. Agostino, provincia di Cremona, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, dica. Allora, un complimento per essere quello che ne so, l'unica trasmissione a livello nazionale che si occupa di basket, quindi per chi come me è appassionato di basket è un piacere ascoltarvi. Grazie. Un consiglio, secondo me indugete troppo a parlare di NBA e forse non interessa. Ma guardi, di basket, se però lei è un ascoltatore affezionato, lei sa che ne parliamo anche poco, anche troppo poco rispetto all'interesse che c'è per l'NBA. Oggi è venuta così, ma perché c'erano motivi fondati, Agostino. Però il comunque di Bagnani, oppure sarà convocato meno l'All-Star Game, in questa fase l'NBA non dico che sono amichevoli, però sono un po' più di amichevoli. Il basket vero dell'NBA lo vedremo un po' più avanti. Questo è certo. Quindi, soprattutto in una settimana in cui dall'Europa sono venute soddisfazioni, no? E quindi magari quello, c'erano diversi spunti da approfondire. Tra parentesi, non vorrei che la citazione di Dan Peterson portasse male, perché se non mi sbaglio, quella volta che la Mobile Jersey vinse a Tel Aviv, poi perse in finale con Tel Aviv, speriamo che ad ogni modo lei fa riferimento a Siena, naturalmente. Esatto. Cominciamo, sarebbe bello arrivarci a quella finale, poi si vedrebbe di sfatare anche la cabala, però speriamo che potrebbe arrivare magari anche più di una quest'anno, speriamo, vediamo. No, la domanda è questa. Io sono di Cremona, per cui avevo avuto Trinchieri come allenatore qua. Credo che se non tutti, la maggior parte di noi appassionati se lo ricorda come l'allenatore che ha cambiato un po' il modo di fare pallacanestro a Cremona, e speriamo che, vedendo un altro così presto, ma sarà difficile. Trinchieri nella prossima partita trova come avversario un giocatore che lui portò in Italia, in Europa, che è Keith Lamford, e questo è un altro punto, secondo me, bello, insomma, non c'è dubbio. Ecco, la domanda è: super giocatore Keith Lamford, tra l'altro. Esatto, è che arrivò in Italia da sconosciuto, fondamentalmente. Che arrivò in Italia da sconosciuto a Cremona, allenato da Trinchieri. Però mi ricordo che Andrea disse: i canestri che fa, io non ho mai visto uno riuscire a fare i canestri che fa Keith Lamford, e quella dolcezza che ha nei polpastrelli adesso ce l'aveva già se non sbaglio. Eliminazione in semifinale ai playoff in quella stagione per Cremona e per andare a Trinchieri con un po' di amarezza. Canestro di Gergati, stiamo arrivando troppo al passato. Intanto il presente dice che non riguarda il basket, però glielo dico lo stesso, anche perché qualche ascoltatore me l'ha giustamente domandato. Il presente dice che Novak Djokovic è in finale agli Australian Open, la maratona terrificante contro Andy Murray è finita adesso, 7-5 nell'ultimo set, il quinto set, e Djokovic sarà l'avversario di Nadal in finale agli Australian Open. Io ringrazio l'ascoltatore di Cremona e adesso voglio proporvi una novità prima di un ospite che si aspetta su un'isola. Novità che è questa, Gian Maria Vacirca, mio amico nonché ex general manager di Capo d'Orlando e Monte Granaro, si è inventato in questa vacanza dal basket, forzata peraltro, un delizioso blog che si chiama Basket Kitchen, canestri e fornelli. È per questo che vi ho detto, ora vi faccio venire fame, soprattutto se non avete ancora pranzato. Canestri e fornelli con prevalenza dei secondi, cioè dei fornelli sui canestri, ma tant'è. Allora, gli abbiamo chiesto di presentarci in questa chiave particolare ogni settimana una partita. Ha cominciato da Sassari Cantù. Basket Chef. Banco di Sardegna-Sassari Bennett Cantù è la sfida tra due coach amanti del bel gioco e della buona tavola. Romeo Sacchetti la preparerà anche ai fornelli, deliziando i suoi due assistenti, Paolo Cetrini e Vincenzo Ugo Ducarello, fedelissimi, con un cavallo di battaglia della sua cucina, il risotto alla birra preparato dentro un pentolone che non finisce più. O magari si guiderà in uno dei suoi locali preferiti di Alghero, dove vive tra passeggiate sul lungomare fino a Capocaccia, invadendo con la sua mole fidate cambuse che gli regalano bicchieri dei suoi vini preferiti, il Cagnulari o un prestigioso Carignano del Sulcis dell'Isola dei Nuraghi. Che dire, a voi la scelta. Andrea Trinchieri, da 3 anni Coach of the Year, in Lega 2 con Veroli, in Serie A con la sua Bennett, è un cuoco fantastico. Bruno Arrigoni, invece, il suo straordinario direttore sportivo, è la miglior guida che possiate cercare per farvi consigliare un posto giusto per andare a cena o per fare merenda. Bruno ama quei locali trasversali in cui puoi mangiare a tutte le ore, dalla colazione alla merenda, sbizzarrendoti tra 100 e una specialità. Oggi sono di gran moda, ma lui li andava a cercare già 10 anni fa, quando il suo rifugio per i peccati di gola era come adesso in zona Laurenteggio a Milano e ci si deliziava con piatti impensabili provenienti dalle botteghe più golose del mondo. Per fare qualche esempio che renda l'idea, il panino con il lampredotto, ovvero uno dei 4 stomaci del bovino di cui vanno pazzi i fiorentini. Sassari Cantù sarà una partita bella e divertente. Poi tutti a cena in un ristorante che in Sardegna mette vicini di tavolo società, staff tecnico, giocatori, tifosi. Un terzo tempo in piena regola, sempre esauritissimo, per il quale è indispensabile la prenotazione. E allora mamma, tutta la pasta! Ditemi se vi è piaciuta questa. 800 24 00 24. Meo Sacchetti non ha sbagliato programma? Coach di Sassari, ciao Meo. Ciao, buongiorno a tutti. Immagino che tu abbia riconosciuto la voce. Sì, ma era registrata o in studio? No, era registrata, Meo. Ah, okay. registrate. Un giorno lo faccio venire qui. Sì. È diventato un cuoco sopraffino. Sì, lo farà, so. Farà una guida adesso. Senti, ma il risotto alla birra, il trucco qual è? Il risotto alla birra è un trucco che ero andato a Torino una volta in un ristorante, l'avevo assaggiato e non mi aveva detto come si faceva. E poi dopo tante prove l'ho imparato e adesso lo faccio meglio io di quel ristorante, di quel pub. Ciapa su. Dicono a Milano. Ciapa su. La Sardegna è stabilmente ormai un'isola felice, o no? Beh sì, innanzitutto è un'isola bella. Poi questo è un'isola questo felice, lo era anche prima che arrivassi Meo Sacchetti. Certo, no, è sempre stata un'isola in cui prima era legata molto al calcio, con Cagliari come sport, io parlo degli sport diciamo maggiori, sì. Poi Sassari deve avere la sua identità in Serie 2, poi siamo riusciti dopo un lavoro già fatto in precedenza ad essere andati su e adesso oltre a rimanere la squadra di Sassari ci sentiamo un po' la squadra un po' della Sardegna. Ma è così? Sì, perché si muovono in tanti, si vede, c'è stato veramente un coinvolgimento diverso, c'è un entusiasmo veramente importante in altri posti che prima magari ci seguivano marginalmente, ma adesso si vede proprio da come ci spostiamo. Come diciamo qui noi a Radio 24, la passione si sente anche lì in Sardegna. Senti Peo, c'è un ascoltatore che mi domanda un parere, lo giro a te visto che è stata la tua ultima vittoria. L'ascoltatore mi chiede un parere su Casale che avete battuto domenica sera. Beh, Casale è una squadra che non ha l'esatto valore della classifica, onestamente, perché è una squadra che onestamente anche contro di noi non molla mai fino alla fine e gli sono girate male delle partite. Sì. Ha questo trio di giocatori esterni molto capaci di far canestro, questi 3 americani, più Malaventura, e ha questo giocatore Chiotti che sta facendo un buon campionato. È logico che i punti mancano, però io onestamente ho visto una squadra viva sotto, sì, questo aspetto, sì. Perciò sicuramente la partita di domenica sarà molto importante, però ci sono ancora tante partite da giocare e il campionato è lungo. Certamente, tu invece hai cuginetti, dinner and dinner. Ah, sì. Io cioè, i cuginetti, il piccolino sta iniziando un pochettino a star meglio, si sta allenando negli ultimi giorni e per noi lui è molto importante perché ci crea delle situazioni in cui riesce a far liberare i nostri giocatori con i piedi per terra, perciò questo qui per la nostra squadra è molto molto molto importante. Io credo sarebbe importante anche per un'altra squadra che ha una maglietta che tu hai messo molte volte, azzurra con i bordi bianchi o bianca con i bordi azzurri. Non so, certamente questo qui è un giocatore, senza voler togliere ai poeta Cinciarini e tutto, ma è un giocatore che ha delle qualità offensive importanti per il gioco di squadra, sicuramente. Che idea ti sei fatto di questo campionato, Meo? È un campionato in cui non era mai successo che Siena perdesse 4 partite nel girone d'andata, mentre si poteva pensare onestamente che Cantù perdesse qualche partita di più, perché per la prima volta il doppio impegno era importante. Si pensava che Milano potesse fare qualcosa di più, onestamente. O molto di più? Voglio dire, è una situazione strana, perché poi quando arrivi, che sei dentro in un buco in questo periodo, in quel periodo, hai solo bisogno di una vittoria per venire fuori, sia che ti chiami Sassari, ti chiami Casale o ti chiami Milano. In questo momento per loro è importante solo la vittoria per cercare di tornare fuori da questa situazione, che è un pochettino non prevista onestamente, perché voglio dire, è logico che gli manca un giocatore come Ailston, però ne ha tanti di giocatori, perciò non è così giustificabile quella classifica, insomma. Ma sai, io vedendola, non si può poi capire però vedendola dal di fuori è logico che per l'Eurolega servono dei giocatori importanti e tosti. Ieri ho visto Maccabi col Barcellona, e perciò lì devi avere veramente delle rotazioni importanti di giocatori che possono giocare all'Eurolega. Però nel campionato italiano forse avere tanti giocatori in un momento così difficile sono tanti. Forse magari bisognerebbe scegliere un gruppo e andare avanti con questo, delle rotazioni più ristrette, più limitate. Sì, detto da un profano che non ha mai vinto niente, cioè non voglio dire niente. Cioè, ci stai prendendo in giro, è così? No, beh, ma io ho vinto le mie cose, i miei livelli, e sono soddisfatto. Vinto le tue cose, i tuoi livelli, e qualcosina anche da giocatore, giusto qualcosa, eh? Sì, qualcosina. Grazie, Meo. Grazie a voi a tutti. Non voglio più sentire Vatirka da tutte le parti, che guarda, parla solo di mangiare e non parla più di basket. No, questo io lo voglio sentire tutte le settimane, invece. Infatti. Voglio sentirlo parlare di basket e non di cucina. Devo sentirmi solo Eurosport. Un saluto a tutti. Ciao Meo, ciao. Un abbraccio. Grazie a Romeo Sacchetti da Sassari. Palla spicchi. Altro ascoltatore, Salvatore da Cuneo. Buongiorno, come se la cava lei in cucina? Mi arrangio. Salve, buongiorno. Fa anche lei risotto alla birra come Meo Sacchetti? No. No, quello no, anche perché sono assolutamente astemio, per cui non andrebbe bene. Non lo diciamo a nessuno, neanche a Gigi Garanzini, eh. Quindi dica Salvatore. Senta, io volevo dire questo: avete parlato di Gallinari e Bargnani, che stanno facendo una grande stagione e tutto quanto, però volevo una vostra opinione su quello che è il resto del panorama cestistico italiano, anche in prospettiva nazionale, diciamo, perché il movimento mi lascia un po' perplesso, nel senso che non vedo nulla di buono, nulla di nuovo all'orizzonte. Sì, beh, vediamo Gentile, che ha appena cambiato maglia. Mi sembra che qualcosa di buono e di nuovo Alessandro Gentile sia già e possa diventare qualcosa di ancora più grande e ancora più valido, perché credo sia un giocatore destinato a una grandissima carriera. Non so se da queste parti, non so se da giocatori importanti in Eurolega, non so se dall'altra parte dell'oceano, questo lo scopriremo vivendo, però Tanto per cominciare, una novità è questa. Voi dite, un giocatore, beh, insomma, dobbiamo accontentarci e poi magari guardare anche, se parliamo di prospettiva azzurra, al campionato che stanno facendo quelli della Virtus, da Poeta a Gigli, possiamo insomma spigolare qua e là. Daniel Hackett è un giocatore diventato molto importante, ce lo diceva una settimana fa il suo allenatore Dal Monte, in una squadra comunque attualmente di vertice come Pesaro, quindi altro giocatore in crescita. Se mi dite ce ne sono pochi, beh, questa insomma, è lì da vedere, lo dicono i numeri. A proposito di numeri, Flavio Tranquillo, buongiorno. Buongiorno. Tu non c'entri con i numeri, ma questi sono 8, 37 e 42. E sono buoni da giocare all'8 sta settimana, o no? 8, 37, 42, 8, mi sa che hanno a che fare con Graffignana a naso. Ma tu cosa dici? Numero di maglia, punti segnati al Madison e cifra scritta su un contratto che tu ci insegni, i contratti in America danno la misura dello status di un giocatore. Cosa c'è scritto su questo contratto? Cosa leggi tra questi numeri? E non è un brutto terno, intanto leggo che per l'otto, anche grazie ai 37, che però naturalmente non sono l'unico motivo, c'è un contratto da 42, un contratto da 42, un contratto alto, diciamo il top di gamma, per 4 e non per 5 anni. Quindi c'è sicuramente sia da parte sua che da parte dei Denver Nuggets la consapevolezza che ovviamente Danilo, ma anche i Nuggets, ritengono che Danilo possa essere un giocatore nei prossimi anni di una squadra che ha tutte le possibilità di provare a fare un salto di qualità, non il giocatore principale, però subito dietro, veramente subito dietro, che secondo me è esattamente il suo ruolo, sì, a quel livello. Sono d'accordo, lo siamo sempre stati su questo punto, ma fa differenza tra 4 e 5 anni? No, secondo me non fa tanta differenza, beh ovviamente è più sicurezza, io credo che idealmente, ma tiro veramente a indovinare interpretando dall'esterno, fai 4 anni a un qualcosa di più e quindi incassi qualcosa di più come media su 4 anni rispetto a quello che avresti fatto su 5, dove la media sarebbe stata inferiore in cambio di più sicurezza. Va anche letto in un'altra maniera: Gallinari si gioca adesso una chance fondamentale, perché il prossimo, se continua così, se continua con lo stesso ritmo di crescita, che non vuol dire che fa 37 tutte le partite, chiaro, ma se continua con lo stesso ritmo di crescita, il prossimo supera questa media, ma la supera anche di un bel po'. Abbiamo aperto il programma, Flavio, parlando invece di qualcosa che in America si vede poco, cioè qualcosa di un po' truculento, come è stato il derby di Los Angeles. Non si è mai visto, anche perché le due squadre mai sono state così vicine, però sinceramente a gennaio, a stagione appena iniziata, eccetera eccetera, un po' sorprende, no, che anche gli americani sentano così tanto questa rivalità, almeno a me ha sorpreso. Sì, certo, è sorprendente, anche non fosse altro che per i motivi relativi alla stagione recente dei Clippers, che non è proprio fatta di tanti Chris Paul, di tanti Chelsea Beatles e di tanti Blake Griffin, quindi già solo per questo è una storia particolare. Diciamo che, come spesso succede quando giochi magari tante volte in poco tempo, e queste due squadre hanno fatto due partite di pre-season e adesso già due di una regular season molto frenetica, getti il potenziale seme di qualche discordia. In più sono squadre con stili diversi, giocatori che hanno provenienze diverse, culture di basket diverse, ci sono anche dei giocatori che fisicamente sono sempre al limite da una parte e dall'altra, penso a Griffin, penso a McRoberts, penso a Barnes, e alla fine diventa abbastanza normale, anche se non da condonare, che succeda. Andando su campi un po' più vicini a noi, Siena l'impresa della settimana, Cantù una vittoria che per il modo soprattutto in cui è arrivata può dare benzina per le prossime gare, credo, in Eurolega, e magari trasformare anche in questa seconda fase in qualcosa di inespugnabile il legno interno di Cantù, che è quello di Desio. Milano che gioca tutto sommato una partita onesta, almeno difensivamente, la perde come nelle ultime 6 volte consecutive, però forse da qualche scintilla di accensione. Ma guarda, vorrei dirti, partendo da Milano, dall'ultima, per una squadra che gioca così male in attacco, perché indubitabilmente gioca male, è abbastanza impressionante la tenuta difensiva, perché alla lunga, facendo così tanta fatica, può succedere che ti scenda la catena, come si suol dire. non è successo a Istanbul, e quindi è chiaro che però a questo punto, prima di fare qualsiasi altro discorso, questa è una squadra che deve vincere 2-3 partite, perché certo, altrimenti diventa l'unica considerazione che riesci a fare se allunghi la serie di sconfitte. Cantù ad esempio ha creato qualcosa di particolare, secondo me c'è un ambiente proprio molto particolare. Io ho fatto il paragone col Cameron Indoor Stadium di Duke, ovviamente non è la stessa cosa, però si sente che c'è qualcosa, e metterei anche il dito verso il fatto che con due rimesse, le stesse tra l'altro disegnate alla stessa maniera, la stessa rimessa che si chiama quick, veloce, hanno fatto due vittorie, una a Bilbao e una con lo Žalgiris, che gli garantiscono di giocarsi fino alla fine l'Eurolega, che è una cosa importantissima. Certo. Oh, scusa, Siena ha vinto a Madrid di 20, questo è una cosa enorme, enorme, nel senso che se non hai qualcosa dentro, soprattutto in una stagione così, non vai a vincere a Madrid di 20, perché i roster, non ti dico che è più 20 Madrid, però sicuramente se... qualcosa di più Madrid. Certamente. Se fai più 20 tu, è perché c'hai qualcosa dentro. Flavio, ti ringrazio, ci sentiamo domenica sera. Abbraccio. Grazie a Flavio Tranquillo, a Franco Piantanini in redazione, a Roberto Scaltriti in regia. Noi invece ci sentiamo domani pomeriggio qui alle 5 con Andrea Zorzi per A Tempo di Sport.